Atto di intimidazione, solo così si può definire le gravissime minacce che sono giunte ad Angelo Falletti, che è il corrispondente di Reporter Associated, il corrispondente di altre testate italiane e straniere, che da molti anni viveva in Colombia con la moglie e con un figlio adolescente. Venerdì 12 marzo quattro uomini sono penetrati nella sua casa e hanno lasciato alla moglie un biglietto davvero terribile. Sei un obiettivo militare, da questo momento ti diamo 48 ore di tempo per lasciare il paese. Angelo Falletti non ha potuto far altro che mettere in due valigie, in due zaini, i suoi effetti personali e abbandonare precipitosamente il paese, dopo anni di lavoro. Tutto questo per essere un reporter indipendente che non si accontentava delle spiegazioni ufficiali del governo sulla drammatica e strisciante guerra civile che c'è in quel paese, le FARC, le AUC. Le minacce per Angelo sono venute direttamente dagli squadroni della morte delle autodifese unite colombiane di estrema destra. Aveva scoperto infatti Angelo che le AUC, cioè gli squadroni della morte, insieme a gruppi militari ufficiali dell'esercito e della polizia colombiana, erano responsabili di alcuni massacri di civili che avevano in qualche modo solidarizzato con le FARC, i gruppi rivoluzionari della sinistra marxista. Bene, questa scoperta è costata questa terribile minaccia ad Angelo Falletti, che è dovuto rientrare in Italia. Sono state subito allertate Reporter Sans Frontiere, Informazione Senza Frontiere e anche la Federazione Europea e Internazionale dei Giornalisti. Tutta la nostra solidarietà ad Angelo deve andare proprio come reporter che ha pagato con minacce gravissime la sua vita e a quelle della sua famiglia esclusivamente per essersi comportato da reporter, per aver vissuto da reporter, per aver fatto insomma il suo dovere. Roberto Di Nunzio, Reporter Associati per Amisnet Radio.